Blue jeans, blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù con i blue jeans che balla il rock and roll. Hey, hey, hey, che balla il rock. Blue jeans, blue jeans, rock and roll. Vorrei sapere perché. Ci volete proibire, volete punirci perché portiamo i jeans senza mai considerare questa nostra età. Blue jeans, rock and roll. C'è tanta gioventù.